Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di due grandi giornalisti che si raccontano e raccontandosi ci presentano due pezzi in parte paralleli della storia d'Italia, due carriere, due esperienze del nostro paese e del giornalismo. Il primo è Arrigo Levi, giornalista e saggista, è stato direttore della Stampa, consigliere del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, il quale pubblica col Mulino Un paese non basta, sono 294 pagine, 16 euro. Quella di Levi è stata una vita interessante, se non in certi momenti addirittura avventurosa, segnata prima dalle leggi razziali che colpirono la sua famiglia, poi dalla partecipazione alla fondazione dello Stato di Israele e infine dalla scoperta della vocazione giornalistica. E questo libro accompagna appunto queste prime esperienze di vita di Arrigo Levi e si ferma dunque ai suoi primi passi da giornalista. Levi inizia la carriera alla BBC e sta quasi per interromperla, è deciso a cambiare vita quando interviene il matrimonio e l'arrivo di una figlia che lo convince a riprendere l'antica passione e a dedicarsi interamente al giornalismo. È questa che ci presenta una bella storia di famiglia e di formazione che ci fa ripercorrere un periodo cruciale della storia non solo del nostro paese ma della storia d'Europa. Sentiamo l'autore. Buongiorno ad Arrigo Levi. Buongiorno. Arrigo Levi, allora questa storia ha delle radici antiche perché la famiglia è legata alle traversie della comunità ebraica, si parla anche della caduta del Ducato di Modena, di un autoesilio a Bologna e poi finalmente ritorna a Modena. E qui le leggi razziali del 1938 e l'inizio di quello che tu chiami il grande buio. Allora la domanda sarà anche banale ma inevitabile con un grande giornalista e un grande scrittore come te. Come ha segnato questa vicenda la tua vita che allora era appena iniziata? Parliamo di un bambino di 12 anni che si trova in questa tempesta. Ma l'ha segnata relativamente meno di quello che si può immaginare, perché io ero protetto da una famiglia molto forte, molto legata, molto unita, 7 figli, 7 fratelli, 2 fratelli, 5 sorelle, mio padre una personalità forte. L'ha segnata meno perché mio padre era un antifascista, il suo studio nel 26 era stato devastato dai fascisti, quindi le leggi razziali non arrivano come una sorpresa. Mio padre non se la prende mai con l'Italia e gli italiani, se la prende con i fascisti e se la prende con il re. E basta. Lei ha la fortuna di ritornare in Italia dall'esilio in Argentina il 2 giugno del 46 in tempo per votare, nelle prime elezioni libere. Quindi la storia, una storia che in un certo senso si compie in modo, non dico felice, ma come doveva andare a finire, ecco. E questi anni del recupero della libertà sono anni centrali nella tua formazione. Tu a un certo punto dai anche un giudizio storico sulla resistenza e su come la resistenza viene letta oggi. Eh sì, perché io ritorno e comincio a fare il giornalista già in Argentina, ma poi appena tornato a Modena con la direzione del giornale di Modena che si chiamava Unità Democratica, di cui era poi il vero direttore, era Guglielmo Zucconi, che è stato poi un grande giornalista veramente. E io mi trovo nel mezzo in un'Italia che era ancora ferita, in cui c'erano ancora tutte le ferite della guerra civile, della resistenza, ancora aperte. Per cui c'era questo clima che adesso sembra sia stato scoperto, ma che si sapeva, insomma, era una qualche cosa di che noi vivevamo giorno per giorno. Però al tempo stesso, anche se c'erano le code, diciamo i resti di questo scontro, però c'era anche un'immensa voglia di ricominciare a lavorare, c'era la voglia di rifarsi, c'era l'entusiasmo per la libertà ritrovata, era un'Italia molto costruttiva, era un'Italia che era così ancora un po' scomposta e sconvolta da quella che era stata la guerra partigiana contro i fascisti, la guerra dei tedeschi contro non solo gli ebrei, contro tutti quelli che resistevano al dominio nazista e fascista, però era un'Italia piena di entusiasmo. Vorrei che ci fosse tanto entusiasmo oggi. Certo, un elemento centrale della tua formazione poi fu la nascita dello Stato di Israele. Tu a questo proposito osservi come La nascita dello Stato di Israele non c'entra nulla con la Shoah, non è una specie di debito che l'Occidente ha saldato nei confronti degli ebrei, ma che in qualche misura uno Stato tascabile, come tu lo definisci, esisteva già prima ed era formato da quel corpus di tradizioni, di storie, di leggi dai quali gli ebrei si sentivano legati. Ecco, che cosa ha rappresentato da questo punto di vista la nascita dello Stato di Israele? Ma ha rappresentato molto per l'ebraismo mondiale, perché dopo l'episodio nella storia di Israele, nella diaspora degli ebrei, nella diaspora non c'è mai stata una persecuzione neanche lontanamente paragonabile o immaginabile a quello che è stata la Shoah. Quindi l'ebraismo europeo è stato praticamente cancellato. 6 milioni di ebrei erano una popolazione immensa che avevano posizioni importanti nella costruzione della società europea. Gli ebrei italiani avevano partecipato al risorgimento, mio padre era stato volontario nella Grande Guerra, c'era un'identificazione profonda con la civiltà europea. E quindi la scossa è tremenda. Contemporaneamente però dalla fine dell'Ottocento era nato il progetto sionista. Io vi confesso, io questo progetto non pensavo di associarmi, perché io mi sentivo molto italiano, pensavo che uno ebreo poteva scegliere per andare in Israele oppure vivere in Italia, dove io poi sempre vissuto in giro per il mondo, insomma. Ma a me una nazione non basta, un paese non basta, come giornalista ho preferito viaggiare. Però quando accade che si minaccia di cancellare gli ultimi 600.000 ebrei che c'erano in Israele, beh, allora ho sentito che c'era il bisogno di andare a dargli una mano. E sei partito il 28 giugno del 48? Sì, nel giugno del 48 io vado lì e partecipo a quella che in Israele si chiama ancora la guerra d'indipendenza, la guerra che si sembrava che fossero destinati a perdere, perché c'erano tutti gli stati arabi coalizzati contro, e che miracolosamente, in qualche modo, quando uno è proprio con i piedi sull'orlo dell'abisso, forse risponde con una volontà di e quindi è una guerra che io racconto con un certo, non dico con umorismo, ma con una partecipazione anche un po' da osservatore, oltre che da persona che ha partecipato a questa guerra. Ed era un Israele che nasceva ed era allora una cosa molto bella, senza dubbio. Grazie ad Arrigo Levi. Grazie a te e a risentirci. Buona domenica. L'altro mostro sacro è Giampaolo Pansa, che pubblica Il Revisionista, 484 pagine, 22 euro, pubblicato da Rizzoli. Questo libro ripercorre non soltanto il mestiere dell'autore, ma anche la sua vita, l'atteggiamento che ha avuto nei confronti della carriera, le grandi sorprese anche che ha avuto durante questa carriera. Il titolo del libro in qualche misura si ricollega anche a quanto abbiamo sentito da Arrigo Levi a proposito della Resistenza. Perché Revisionista? Perché Pansa, volendo ripercorrere la sua vita, che egli considera, come scrive, un'esistenza normale, che però può riservare qualche sorpresa, assume questa qualifica con la quale è stato bollato quasi come un complimento. È stato bollato da quando comincia a scrivere della Resistenza, ma comincia a farlo senza le omissioni imposte dalla retorica sulla Resistenza e dagli storici di sinistra. Queste sono le sue parole. Pansa vuole cercare la verità su un'epoca della storia. Da dilettante della revisione storiografica, aggiunge, ho avuto la faccia tosta di lavorare su terreni che l'egemonia culturale del Partito Comunista aveva sempre dichiarato intoccabili: la Resistenza, l'antifascismo, lo scontro tra il movimento partigiano e la Repubblica Sociale Italiana. Tutti i temi che hanno dato argomento ai libri precedenti. Lo scontro di cui Pansa ci parla ha segnato e caratterizzato gli anni più recenti della sua carriera, che egli vive con sempre maggiore insofferenza verso questa coltre di conformismo. Esemplari sono le difficoltà che narra in questo libro per trasformare in una fiction della RAI proprio uno di questi libri revisionisti, Sangue dei Vinti. In quell'occasione Pansa è criticato senza appelli attenuanti da molti critici: chi lo giudica il film un melò pseudostorico che non merita un festival, chi lo giudica sciatta fiction ma non è cinema, un papocchio cialtrone dozzinale, una vera porcheria revisionista. Ecco, questi sono alcuni dei giudizi che Pansa ricevette. E allora questa è un'occasione non solo per rileggere la carriera esemplare di uno dei migliori giornalisti italiani, libero e anticonformista, ma proprio per ripercorrere l'ambiente culturale e politico italiano, sordo al revisionismo alla pansa, cioè alla critica e alla riflessione, e che ha trovato proprio nei giornali per i quali più a lungo Pansa ha lavorato, cioè Repubblica e L'Espresso, il modello più significativo. Sentite come Pansa descrive questo rifiuto a discutere e a confrontarsi con le conseguenze che questo può portare sulla politica. A muovere gli antifascisti militanti e Maneschi è una concezione autoritaria della democrazia. In nessun paese libero sarebbe possibile sostenere il principio che ha diritto di cittadinanza un solo modo di pensare. Succede così soltanto negli stati illiberali, ed è successo così nell'Europa del Novecento, dapprima nella Russia comunista, poi nell'Italia di Mussolini e nella Germania hitleriana. Non ragioni come me? E allora sei un fascista. Ecco l'assioma, il principio categorico che governa le pulsioni di gran parte delle sinistre. Non ha importanza che l'accusa di fascismo non abbia più nessuna forza, anche per l'abuso che se ne sta facendo. È sufficiente credere che l'invettiva sia un proiettile verbale capace di andare sempre a segno e ritenere che l'urlo sia fondato su una verità. L'accusa, l'invettiva e l'urlo rivelano una regressione allo stadio infantile della politica. Lo stesso vale per un altro abuso, quello della parola regime. Ecco tre sillabe magiche, sempre più ricorrenti nella battaglia politica delle sinistre. Hanno vinto gli altri? Allora l'Italia sta diventando un regime fascista, ovviamente. Com'è fascista l'uomo che lo incarna? Il sempiterno cavaliere, il nuovo Mussolini. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Questo era un brano della colonna sonora, per così dire, del rinnovato, restaurato Museo del Risorgimento di Milano, di Via Borgonuovo, che è stato rinaugurato pochi giorni fa. E questi rumori si riferiscono alla ricostruzione della battaglia di Solferino e San Martino, della quale ricorre tra pochi giorni il 150° anniversario. Fu combattuta infatti il 24 giugno del 1859, una data importante nella storia d'Italia, perché quella battaglia, come ricorderete, fu lo snodo fondamentale della seconda guerra d'indipendenza e portò all'annessione della Lombardia nel Regno di Savoia. In questa occasione verrà anche il presidente Sarkozy, che tornerà sui luoghi della battaglia assieme al presidente Napolitano, perché, come ancora ricorderete, quella battaglia fu combattuta anche dai francesi. Napoleone III si era alleato con il Regno di Savoia grazie all'abile trattativa condotta dal conte di Cavour. In questa occasione ci sono molte iniziative e anche delle iniziative tipo editoriale. Vi voglio segnalare oggi un'opera significativa che è stata curata da uno storico sociale dell'Università di Bologna, Costantino Cipolla, e l'opera si articola in quattro volumi intitolati Il crinale dei crinali, L'altro crinale, curato anche da Pia Dusi, Sul crinale con Matteo Bertaiola, Il crinale della vittoria con Angiolino Bignotti, e sono pubblicati da Franco Angeli, costano ciascuno 30 euro e hanno una dimensione ragguardevole, vanno dalle 498 pagine alle 624. Questi quattro volumi sono il frutto di una ricerca voluta dall'amministrazione comunale di Solferino, rappresentano un'opera singolare perché ogni volume è scritto da un punto di vista differente. Quindi il primo, Il crinale dei crinali, parla della battaglia, che fu, ricordiamolo, una delle prime battaglie davvero europee ed epocali per le dimensioni. Il numero delle forze in campo infatti era di 118.000 fra italiani e francesi e 126.000 austriaci, con 10.000 cavalli per parte, e naturalmente per il numero delle vittime ci furono oltre 14.000 morti e 23.000 feriti. Gli altri tre volumi invece considerano le battaglie dai punti di vista rispettivamente dei francesi, degli italiani e degli austriaci. L'opera quindi è tutt'altro che retorica, perché ritroviamo saggi, analisi, documenti che permettono di avere un quadro composito e completo di quell'evento. Sentite per esempio questa testimonianza di un giornalista francese, Edmond Texier, che scrive al suo direttore presentando i luoghi della battaglia. Se volete avere un'idea del terreno dove si sono scontrate per più di 12 ore queste due grandi armate, pensate ad un'immensa piana di prati, di campi, di messi e di vigne, dominate da una parte da una catena di colline, sormontate da torri e da villaggi fortificati. È naturale che tutte le colline appartenevano agli austriaci e che ogni rilievo fosse irto di cannoni. L'armata austriaca, così fortemente sostenuta, poteva inoltre far arrivare in ogni momento, mediante la sua ferrovia, munizioni e truppe fresche da Peschiera, da Verona e da Mantova. Tutta l'armata, racchiusa nel quadrilatero, poteva dunque trovarsi sul campo di battaglia, e in effetti c'era. Le nostre truppe, allineate in ordine di battaglia davanti al Castiglione, dovevano respingere il nemico percorrendo una distesa di almeno 5 leghe e, dopo avere adempiuto a questo primo compito, dovevano impadronirsi di tutte le alture alla baionetta. Quando furono scambiati i primi colpi di cannone, l'imperatore Napoleone arrivò sul campo di battaglia e delineò il piano seguente. L'armata francese doveva portarsi su Cavriana, quartier generale di Francesco Giuseppe e obiettivo della guerra, eseguendo un movimento di aggiramento sulla sinistra, mentre l'armata sarda, posizionata dall'altra parte delle alture, avrebbe eseguito lo stesso movimento sulla destra. Questo piano fu subito messo in esecuzione e i 4 corpi d'armata presero posizione. A parte le conseguenze storiche, quella battaglia ebbe un altro impatto determinante. Infatti, nacque da lì la Croce Rossa, a opera di Henri Dunant, il quale era esponente di una ricca famiglia genovrina. Era nato nel 1828 e nel 1859 si trovava, alcuni dicono per affari, lui per turismo, a Castiglione delle Stiviere. Lì Dunant assiste all'aiuto che viene dato ai feriti e si rende conto della drammaticità, della tragicità di quell'evento, al numero dei feriti che non potettero essere soccorsi in tempo, ma anche all'abnegazione che soprattutto le donne, che erano coordinate dal parroco del luogo, prestano ai feriti e ai caduti di tutte le bandiere. E allora da lì gli balena in mente l'idea di creare un'organizzazione per l'assistenza ai feriti, che prenderà corpo nel 1863. Dopo quella intuizione e quella realizzazione, la vita di Dunant sarà una vita straordinariamente sfortunata. Lui vivrà di stenti, di miserie, di oscurità. Nessuno per molti anni riconoscerà il ruolo che ha svolto di fondatore della Croce Rossa, fino a un tardivo riconoscimento e al premio Nobel per la pace che gli viene conferito nel 1901. E Dunant morirà proprio 100 anni fa, il 30 ottobre del 1909. Nel 1862 Dunant aveva scritto Un souvenir des Solferino, un volume che aveva fatto epoca allora e aveva avuto un enorme eco in tutta Europa. Tra l'altro lui l'aveva scritto senza metterlo in vendita. E questo libro ritorna ora nella versione originale anastatica, nella traduzione di Costantino Cipolla, Raimonda Ottaviani e Paolo Vanni, sempre pubblicato da Franco Angeli, e costa 18 euro. Sulla vita di Henri Dunant è uscito anche il libro di Franco Giampiccoli, Henri Dunant, il fondatore della Croce Rossa, pubblicato da Claudiana, 192 pagine, 15 euro. Per comprendere il significato e il ruolo che la Croce Rossa svolge in occasione di eventi tragici come le guerre, è una testimonianza suggestiva il libro di Paola Chiesa, Carissima Famiglia, che presenta una raccolta di lettere dei prigionieri di guerra milanesi tra il 1940 e 1946, è pubblicato da Mursia, 426 pagine, 22 euro. Troviamo qui i testi molto semplici, spesso telegrafici, assolutamente sgrammaticati in molte occasioni, ma che trasmettono il senso di sollievo e di conforto nel comunicare di stare bene e di essere magari trattati abbastanza bene e nel conoscere le reciproche notizie. Non solo troviamo i testi, che sono oltre 150, ma anche le immagini delle lettere, e con una breve biografia del militare alle quali quelle lettere si riferiscono. E dunque questo è un documento particolarmente interessante, soprattutto per chi ha avuto parenti al fronte in quel periodo. E anche questa è un'iniziativa patrocinata dal comune, dalla provincia di Milano, della Croce Rossa, per il 150° anniversario della battaglia di Solferino e San Martino. Dicevamo dei festeggiamenti ai quali parteciperanno i due presidenti della Repubblica, Napolitano e Sarkozy. Quindi Sarkozy viene in Italia e lo possiamo accogliere leggendo la biografia non autorizzata di un celebre giornalista francese, che non è simpatetico con Sarkozy, cioè Jean-Marie Colombani, che pubblica con Rizzoli Un americano a Parigi, le scelte e gli errori di Sarkozy, 166 pagine, 18 euro, tradotto da Isabella Aguillas. Colombani dà atto del grande dinamismo del presidente francese, che peraltro è stato anche premiato alle ultime elezioni europee, ma considera questo suo attivismo come un'addizione o giustapposizione di riforme, scrive, di cui spera Sarkozy a lungo termine di ottenere un mutamento sociale dotato di senso. Sarkozy si sta accorgendo che governare è difficile, e scrive Colombani, Sarkozy ha vissuto i primi tempi della sua presidenza in questo modo ludico e leggero, ma ora è finita, la sua carica l'ha catturato, assorbito, plasmato, e lui se ne è reso conto. Resta il fatto, aggiunge Colombani, che Sarkozy stona nell'ambiente politico francese, quindi una figura atipica, certamente vulcanica, sulla quale si possono rivolgere diverse critiche, però prendendo atto, ripeto, di questo grande dinamismo e attivismo. Il giudizio quindi di Colombani è misurato, esprime i pro e i contro e dà atto di essere aperto a un giudizio non ancora definitivo sul presidente che tra pochi giorni, ripeto, vedremo in Italia. E a questo punto... Il confettino. Restiamo in ambito storico e in Francia con un giallo ambientato a Versailles. Intrigo alla corte del Re Sole di Annie Pietri, è pubblicato da Feltrinelli, 168 pagine, 12 euro, tradotto da Margherita Belardetti. E questo è un giallo in cui vediamo all'opera la Marchese di Montespan, che era la favorita del Re Sole e che fa entrare i giovani lettori nell'ambiente fastoso della sua corte per risolvere un caso poliziesco. Prima di salutarvi vi ricordo che sempre il 24 giugno comincia a Verbania il Festival di Letteratura di Montagna Viaggio Avventura Lago Maggiore Letteraltura, che dopo Verbania si trasferirà alle Quarne, poi a Macugnaga e poi in Balbognanco fino al 19 luglio. Il 24 giugno si comincia appunto a Verbania con una lettura spettacolo sul tema della valanga nell'immaginario popolare, poi a seguire molti appuntamenti, tra cui molti dedicati ai libri e alle letture. Ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e ringrazio il signor Vittorio Cobianchi che mi ha scritto un'email per segnalarmi uno strafalcione che ho commesso la settimana scorsa. Lo ringrazio perché, parlando del libro del vescovo Rainer Marx, Il Capitale, ho definito Il Capitale di Marx, il filosofo, un libricino. Naturalmente mi sono confuso col Manifesto del Partito Comunista. Il Capitale di Marx è un librone. In Italia c'è una versione recente pubblicata da UTET in tre volumi, sono 3012 pagine. Chi si vuole avventurare sappia che costa 30 euro. Ce n'è anche un'edizione più economica di Newton Compton, 1528 pagine, 14,90 euro. Altro che libricino. Con questo passo la linea a Respiro. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.